Inside the pavilion, it's hot, or as Andrea said, too hot. Fa caldo qui, troppo caldo. This phrase, fa caldo, using the verb to do or to make, fare, is only used when talking about the weather or the temperature in a place. The same applies to its opposite, fa freddo, it's cold. But if you want to say that something is hot or cold, you say, è caldo, è freddo. Per esempio, il tiramisù è freddo. The tiramisù is cold. La pasta è calda. The pasta is hot. Adesso un piccolo test sulle espressioni nuove. Dica l'italiano dopo l'inglese e poi ripeta la risposta corretta. It's cold. Fa freddo. I'm cold. Ho freddo. I'm hot. Ho caldo. I'm in a hurry. Ho fretta. I'm sleepy. Ho sonno. I'm afraid. Ho paura. It's hot. Fa caldo.